Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Se avessi avuto modo di incontrarlo, di poterlo fare in futuro, gli direi che le bombe se le tenga nascoste nel cassetto. Non penso che cominciare l'anno con bombe H e terremoti sia un segnale intelligente per nessuno al mondo. Hanno fatto le prove tutte lo fanno. Dopo è chiaro che stanno bello, ce l'hanno bello chiusa a chiave nella cantina e non la adoperano. Che il leader nordcoreano sia un problema e un pericolo è chiaro ed evidente a chiunque in giro per il mondo. Che il modo migliore per riportarlo a ragione sia isolarlo ulteriormente piuttosto che dialogarci, questo è discutibile. C'è qualcuno che propone perfino di dialogare con l'ISIS. Io almeno l'ho potuto incontrare una volta, è stato molto cordiale con me, io gli ho fatto i complimenti perché ogni anno manda dei calciatori giovani qui in Italia a studiare l'italiano e a studiare la tecnica del calcio italiano. Io penso che un dittatore così, almeno io lo considero non un dittatore, ma bensì uno che si vuole aprire al mondo occidentale. Cioè, avete capito, costui è Razzi. Razzi, ovviamente chiamato dai nostri amici della Zanzara, il massimo esperto che abbiamo di Corea del Nord. Razzi, che dice che Kim Jong-un, siccome manda dei calciatori a imparare la tecnica, infatti notoriamente la nazionale nordcoreana di calcio, beh, straordinaria, impara la tecnica e la lingua, un dittatore illuminato uno così. Poi una bombetta H ogni tanto ci scappa, insomma, che dobbiamo fare? Razzi e Salvini, i due massimi esperti di Corea del Nord, eh? Vabbè. Dai che è venerdì, è già venerdì. Ieri era lunedì in pratica per me, perché sono ripartito da ieri, e oggi è venerdì, settimana corta. Dato che ieri qua si proponeva in redazione, era il nostro Lorenzo Nespoli, che adesso segnaleremo subito alla direzione del personale, di settimane di due giorni. Hanno detto che si sveglia alle 5 dovrebbe avere delle settimane lavorative di due giorni. Quando fa freddo, magari tre giorni. No, tre giorni quando è primavera, che le giornate sono un po' più lunghe. Quando fa caldo si potrebbe scendere anche a un giorno, per l'afa, il caldo. Adesso la proponiamo. La proponiamo per decreto a Renzi, Tanto in Italia, ma chi se ne frega, può passare di tutto. Questo è 24 mattino, 6:32 minuti. Buongiorno cari italiani, cari stranieri, cari amici che ci ascoltate dall'estero. Tanti italiani, scriveteci, oggi ci sono già arrivati i messaggi dalla Australia. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna. Va bene, mi fa piacere, caro ascoltatore, che ci mandi al 349-238-6666 tutte le tue passioni. Qui dobbiamo aprire subito il Parlamento. Ieri, tra l'altro, non l'abbiamo aperto, quindi ufficialmente il Parlamento riapre un caffè, quindi oggi con il ministro Boschi che va a prendere un caffè e poi ci vediamo più tardi. Ci sono tanti temi di cui parlare, alcuni internazionali, alcuni... Per qualcuno è normale che un signore marocchino ieri urlando all'Akbar con la cintura esplosiva si sia avvicinato a due poliziotti che poi l'hanno giustamente freddato e ucciso temendo un nuovo attentato, eh? Ormai per le mammolette che mi seguono su Twitter è tutto normale, che è capitato, uno Allahu Akbar e si fa uccidere così. Ormai viviamo in una società in cui anche questo è considerato, ma sì, purtroppo succede. Eh no. Allora, voglio salutare Federico Novella. Lo ritroviamo in tangenziale, credo. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buona Corea a tutti. Buona Corea del Nord, quella buona, quella buona. Quella che buona. Ci regala sempre soddisfazioni. Ma sì, ma io poi mi chiedo, ma noi ci occupiamo tanto della Corea, ma la Corea si sta occupando di razzi, cioè esatto. Ascolta, ma di bombe, non di loro, ecco, più di bombe che di razzi. Le bombe di razzi in questo caso, ecco. Senti. 2016년 1월 6일 10시. Saluto anche Vincino. Senti la conduttrice nordcoreana con che piglio. Noi non ce l'abbiamo un Giorgino così in TV che sta dicendo la formazione del Milan, tra l'altro. Io faccio la traduzione simultanea se vuoi. Noi non ce l'abbiamo un Mentana così, Vincino, che annuncia con questo vigore, che ne so, fatto un accordo elettorale per la riforma del Senato. Ma ce l'avremo presto, tranquilli. Insomma. Vincino, cosa potremmo... Ma siamo pieni di questi qua, dai. Dappertutto abbiamo annunciatrici così. No. Sì, ma ti pare che abbiamo in telegiornale, abbiamo una giornalista, non ne abbiamo, abbiamo solo annunciatori di grandi successi, di governo. Ma non con questo vigore. Vigore. Ti stanno allenando, ecco. Guarda, io l'assumerei subito come corrispondente, se sapessi l'italiano, come corrispondente dalla Nord Corea proprio. Così. Ci mettiamo i sottotitoli, va bene così. Lo stesso. Va così bene, forse peraltro la facciamo giustiziare in due giorni, peraltro. temo questo. Allora, come state? Vincino, come stai? Come hai passato il Capodanno con il tuo busto di Andreotti sul terrazzo? Di schifo, guarda. Vabbè, è così qua, non lo so. Che depressione. Quest'anno è lento proprio a svegliarsi. È lento. Non mi convince, guarda, io... al 17 guarda, il 2016 non ti piace, sarà no, che non lo so, non è bisesto, è no, bisesto, è bisesto. Tu Federico, tutto a posto? Hai ripreso mattina 5? Tutto a posto, abbiamo ripreso ieri e la tangenziale devo dire che mi mancava un po', si viene un po' di nostalgia, no? della tangenziale, dei meno 5 gradi che ci sono in questo momento nella zona tra Sesto e Cologno. Che bello. Sì, il Capodanno è stato, diciamo, le vacanze sono state tranquille, non ho fatto vacanze di lusso come le tue, mi sono rilassato in qualche modo, anche se ho fatto fatica, non so se tu hai fatto fatica a leggere. Sì, guarda, le Seychelles ho fatto fatica a leggere, a trovarle. Il Corriere delle Seychelles. Esatto. Ho fatto fatica a trovarle più che altro, però mi risulta che abbiano parlato delle stesse cose di cui stanno parlando anche adesso, le unioni civili... Non è cambiato niente. Guarda. Però insomma vediamo un po' a livello internazionale. Allora, è un anno da Charlie Hebdo, caro Vincino. Sì. Un anno fa, come passa il tempo, vedi? Ci siamo già dimenticati, forse, no? La Francia si è dimenticata, no? Tu no, molti no. No, ma poi, come dire, un anno da Charlie Hebdo, due mesi dal Bataclan, insomma... È chiaro. Non si dimentica. Hanno fatto bene a ricordarcelo. Questo sì. Però, insomma, avete visto, ancora in Francia è successa questa cosa di questo... Non so, è normale, cioè ci dobbiamo abituare a questo mondo, Federico, ci dobbiamo abituare a questo mondo. Guarda, tra poco mattino 5 avrò ospite Domenico Quirico, come sapete è stato rapito per 5 mesi in Siria, e lui sostiene di sì, se io sono d'accordo con lui, cioè sono cose alle quali dobbiamo abituarci e alle quali ci abitueremo, perché non è che puoi scegliere se abituarti o meno all'insicurezza, alla, al cambiamento del suo stile di vita, sì. Perché purtroppo l'ISIS fa parte di questo secolo, non fa parte di questo anno, ce lo ritroveremo anche per i prossimi anni. Ed è una cosa che si tramanderà di generazione in generazione. A me colpisce il fatto che tutti questi terroristi o presunti tali sono tutti giovanissimi, non ce ne sono di vecchi, certo. E tutti sono tutti uguali, poi non si capisce che se sono ricchi o poveri, se sono operai o chissà cos'altro, ma è come se cancellassero la loro identità e da quel momento diventano dei soldati al servizio della causa di Dio. E devo dire che insomma È inquietante. È abbastanza inquietante, ma forse sì, dobbiamo abituarci a questo, perché insomma a questo siamo arrivati. Adesso poi le cause, non lo so, sono lunghe, molteplici. Caro Vincino, ci dobbiamo abituare. Fattene una ragione. Forse è per questo che sei un po' depresso per questo 2016. È per questo. No, ma non lo so, vabbè. Siamo disposti a tutto, non è che... Ma chi siamo disposti a tutto? Parla come il divino Telma col plurale maiestatis. Siamo disposti a tutto. Però sentite qua, siamo in questa barbarie qua, in quest'epoca barbara. La viviamo fino in fondo. C'è Salvini che ha già stabilito chi sono i colpevoli di tutto questo, soprattutto quello che è successo anche a Colonia, dove bande di arabi lo ha detto la polizia, non è che dico bande di arabi, uso la dicitura della polizia, non è che volevano fare furti, ma molestie sessuali, stupri e violenze nei confronti delle donne a Capodanno. Parole della polizia di Colonia, sentite Salvini. La Merkel e Renzi sono complici di questo problema e delle eventuali reazioni razziste mai giustificate, però un Capodanno dove ci sarebbero gruppi organizzati di nordafricani che vanno in giro a molestare e violentare donne, io non me lo ricordo in Europa. Ecco, non vorrei che fosse l'inizio già di una serie i colpevoli, i colpevoli sono trovati per Salvini. Sono questi. Non lo so, la colpevole è la polizia tedesca, che come erano in 200 là, totalmente imbecilli, non lo so, mi sembra... Erano mille, un po' insieme, imbecilli, non lo so. I tedeschi sono terribili, come dire. Io ho il terrore dei poliziotti tedeschi in assetto. Che ti fanno i poliziotti tedeschi? Ma dai, 200 poliziotti tedeschi, ma io scappo subito. Non sono i tedeschi di 60 anni fa, però. Sono sempre tedeschi. Anni fa, va bene, ma sono 200 poliziotti tedeschi che niente, non sono stati capaci di fermarne manco uno la notte. Sì, devo dire che anch'io di fronte a 200 poliziotti tedeschi in assetto un po' avrei paura. Non siamo a 60 anni fa, lo so, però avrei paura, non lo so. Manco fossero 200 poliziotti italiani o carabinieri o vigili urbani romani, e che ne so. Sono quelle paure ancestrali, Federico, effettivamente. Ma probabilmente, sai, non erano preparati, perché io francamente non ho mai sentito parlare di una molestia di piazza, cioè di un problema di molestia sessuale che diventa un problema di ordine pubblico. Magari non avevano delle istruzioni precise, perché non gli era mai capitato, capito? Sì. Cioè, è una roba che... Un poliziotto intelligente mica ha bisogno di istruzioni precise, poi dico, vede il reato e via, interviene. Non è che... È chiaro che la situazione è sfuggita di mano anche alla polizia, perché è abbastanza incredibile che una folla abbia preso il controllo della situazione. Ma diciamo che non doveva crearsi quell'assembramento lì, cioè mille persone ubriache. Tra l'altro poi ho letto che secondo i verbali di polizia potrebbero essere molti rifugiati siriani, quindi i rifugiati tengono male l'alcol questi, però. Istruirli, cioè farli, cioè sei islamico, bevi fino a quando lo tieni bene e poi si ti abitui, no? In realtà, secondo dice, bisognerebbe educarli a bere poco a poco là, e cominciare nell'Islam. Alcolici, vodka, esattamente, no? All'ingresso prendi le impronte e via, due vodka o gin o grappe, no? Così capiscono un po' come se reggono, gli dai la cittadinanza, se non la reggono, via. Potrebbe essere un'idea. Può potrebbe essere un'idea. Vincino, a chi dobbiamo rivolgerci per introdurla all'emiro del Qatar? Non lo so. Bisognerebbe farsi sponsorizzare da qualche super alcolicista là italiano. Sì. Queste fabbriche. Sì. Di cose. No, e poi vabbè, quelli all'Arabia Saudita direttamente, spiantiamo ISIS, Arabia Saudita. Andiamo in Arabia Saudita e proponiamo al re, diciamo, questa piccola innovazione dell'Islam, piccolissima. Le quote alcoliche. Dice, chi viene in Europa deve dimostrare di saper reggere almeno due gin, ecco. E alla vista di una donna tedesca anche deve saper reggere, perché sì, poi anche là va bene, va bene. Le vedono sempre col burka, una volta che la vedono, sono già in paradiso. Pensano questo. E bisogna spiegare che non è il paradiso. Non è il paradiso. Secondo Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, queste violenze sono addirittura peggio di quello che è successo a Parigi. Sentite. Io non lo trovo meno grave di quello che è successo a Parigi, anzi per certi versi più inquietante. Più inquietante, Federico, perché diceva ieri, era dell'Illy Gruber, e diceva che c'è proprio questa, è una colonizzazione culturale quella che stanno facendo, no? Il non rispetto della donna. Colonia. Diciamo che ci sono già in molte città d'Europa delle zone franche, non voglio chiamarle ghetti, ma di fatto spesso sono dei ghetti, in cui le regole dello Stato ospitante sono sospese. E quello che abbiamo visto a Colonia è una diretta conseguenza nuova, terribile, di questa sospensione della legalità. Perché sì, diciamoci la verità, quando i flussi migratori sono incontrollabili, il flusso delle persone che ospitiamo diventa esagerato, e se diventa esagerato ci sono queste conseguenze. E il rischio è che sul lungo periodo, come dice effettivamente Sallusti, poi si debba rinunciare a parte della nostra tranquillità e a parte delle nostre regole, perché dobbiamo soddisfare un esercito che abbiamo deciso, volenti o nolenti, di ospitare. Questo è ciò con cui dobbiamo fare i conti. Però, caro Vincino, adesso devo dare le informazioni sul traffico. Poi parliamo di Marano, no? Di Marano, di Quarto. Di Quarto, esatto. Lo so. Infatti, volevo dire proprio questo. Abbiamo le informazioni sul traffico, poi c'è la segreteria. Poi ti chiedo cosa ne pensi del Movimento 5 Stelle. Sei un po' tranquillo? Sì. Ti carichi così nel 2016? Sono un po' svegliato. Sei un po' svegliato, va bene. È incontrollabile anche questo. Bene, attento, perché guarda che Casaleggio ha detto che ha trovato la sua auto con i bulloni delle ruote allentati due volte e sospetta che ci sia un depistaggio e un tentativo di sabotaggio della sua auto. Un fuoriuscito. Vabbè, capisci? Sospetta un sabotaggio. Stai attento, tra poco. Manda traffico. Ciao piccolo debosciato, come va? Tu sai che sei lì, noi durante le festività a lavorare e tutto, mentre tu invece eri al sole che ti grattavi la pancia. No le Olimpiadi a Roma, no le Olimpiadi a Roma, perché già disastrata, ce l'hanno disastrata i parlamentari. Alessandro, bentornato, mi fa spessissimo arrabbiare. Ciao. Ciao signor Milan, quanto si bello, si è tornato a lavorare bello fresco. Viva l'Italia, viva le ferie e viva anche il lavoro, signor Milan. Cari scugnizzielo, si è tornato a faticare. Grande Alessandro, sei rientrato al tuo posto in ufficio, giaccherini e cravatta e tutto come prima. Non male questa, Federico, giaccherini e cravatta. Cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Se non cosa ridere? Quando rido, scusa. Cosa c'è da ridere? Non rido io, non ride Vincino, che il Palermo ha preso due pere dalla Fiorentina. Tu sai che ti sono vicino, ti sono sempre vicino. Allora, a Quarto, in Campania, il Movimento 5 Stelle ha vinto le comunali e c'è il sindaco, ma è scoppiata questa polemica perché uno del Movimento 5 Stelle, candidato al Movimento 5 Stelle, ha preso dei voti ed è ora indagato dalla direzione antimafia per camorra. Per la verità, dice Beppe Grillo, è stato espulso subito, poi i suoi voti non sono stati determinanti, avremmo vinto anche senza di lui. Il 10% soltanto, dai, dai voti. No, vabbè, non sono stati determinanti. Cioè, ma perché, scusa, perché mica hanno votato tutti lui, camorristi? Hanno votato pure, hanno sparso in giro. No? Tu dici, che... attenzione, tu dici che la camorra ha votato... Il 30% di quella elezione là, cioè, come dire... Ma dai, cosa ne sai se, te? Se tu sei sicuro che una buona parte dei voti sono... di origine camorrista, chiuso, basta, fai dimettere tutto e via, no? Quindi dovrebbero... è l'esempio, e che vergogna, dai, insomma, quindi, dire, quindi il Movimento 5 Stelle... Poi, tra l'altro, tu dicevi prima per le ruote sbullonate a Casaleggio, sì. Io starei attento a Grillo, come dire, non è che... In che senso? Cioè, che ma quello è come dire, cioè, se hanno dei problemi tra di loro... Gliela sbullonate lui. Si risolvono così. Tu dici, è stato... si risolve così i problemi. È stato Grillo che gliela sbullonate. Assolutamente un po'. Sì. Ma assolutamente. È inquietante, guarda, è inquietante. Beh, questa, Federico, questa è una lettura straordinaria. Attenzione, Beppe Grillo che attenta la vita di Casaleggio. Beh, sicuramente sarebbe più divertente dell'assemblea del PD. Cioè, i problemi li risolvono così. Ti smonto il radiatore. Anche in Corea fanno così, non è che... Chi gonfia le gomme, così anche in Corea, certo. Sì. Quello là è stato ammazzato in incidente stradale, là, il vice del ragazzino. Effettivamente io un paio di volte l'avevo definito su Twitter Kim Jong Grill, quindi tutto tu. Ah, sì, carina, Kim tutto... Jong Grill. Puoi rivendertela, guarda, vincino è gratis. In una vignetta Kim Jong Grill, se vuoi. Guarda, ti chiediamo un caffè al limite quando veniamo a Roma la prossima volta, io e Federico. Insomma, quindi dovrebbero dimettere. Ma è normale, cioè dai l'esempio, fai, noi facciamo così, via, paf. È tutto la sindaca, quella là, tutto, si dimettono tutti e via. Vanno a nuove elezioni. Nuove elezioni. Ne presentano altri 12, 15. Ma guarda che l'ipotesi c'è, perché ieri anche Roberto Fico ha detto non è escluso che si possa sciogliere il comune di Quarno. Non so, Federico, secondo te io ho questa idea, l'ho scritta anche su Twitter, ho sempre la sensazione che al Movimento 5 Stelle non convenga governare i comuni, perché è così, perché il sistema è più forte, poi se sono... È come quando dici mi conviene restare per sempre bambino, pensano a tutti i miei genitori, se devo segnare. Ho capito, ma allora se vuoi fare, se vuoi prendere il comune di Quarto, poi hai a che fare con queste certo. situazioni. Poi vabbè, lì ci si chiede quale sia la dose minima tollerata di camorra che bisogna sopportare in un voto elettorale. Però hai ragione tu, nel senso che il Movimento 5 Stelle, come lo conosciamo oggi, un domani dovrà cambiare, dovrà per forza trasformarsi, perché dovrà misurarsi con il governo, che adesso è il governo di alcune piccole città, piccole grandi città, e di qualche... partecipando al governo di qualche regione, ma domani prima o poi a Roma... Allo stato attuale i grillini secondo me sono favoriti, loro si stanno mettendo le mani nei capelli per questa cosa, perché governare Roma secondo me che dici Vincino, vinceranno a Roma? Attenzione però, c'è un messaggio da Mirko per te, sì, caro Vincino, sì. Sciacquati la bocca con la candeggina prima di parlare del Movimento 5 Stelle. Lo ha detto tra l'altro svitando dei bulloni dell'automobile di Vincino. Esatto. Ma a Roma chi hanno però? Non riescono a trovare il candidato, dai. Cioè, quell'imbecille che ha già perso alle precedenti. Ma guarda che se il malcontento è più grande di tanto, non serve il candidato forte. Ma chi è l'imbecille? Ma oh! No, quello non lo so, ma c'era uno che era proprio scarso, mi sembrava, obiettivamente era scarso. Vabbè, ancora non hanno dato il candidato, secondo me non vinceranno, perché dalle altre parti troveranno candidati bravi, speriamo, sì, no? Sì. Eccomi qua, tu speri. No, ma io chi vince vince, è proprio un disastro, però cioè proprio... Guarda, questo commissario è il peggio del peggio del peggio che tronca, c'è. Tronca. C'è uno mandato da Alfano, ma che una cosa, guarda. Disastro. Il precedente commissario. Ma sono andato via, ma il Capodanno poi c'è stato questo casino del Capodanno a Roma? C'è stato il Capodanno? Credo che ci sia stato il Capodanno, anche al Circo Massimo c'è stato, credo, qualcosa. Non lo so, ma non è stato granché. No, non è, nemmeno... non è stato una, non è stata una grande cosa, non è stata una grande cosa. Io ho organizzato tanti anni fa un capodanno, sai? A Roma? A Roma, nel tunnel. Si chiamava il tunnel, che uno entrava nell'81 e usciva nell'82. E che cosa hai fatto? No, ero insieme ad altri quattro che organizzavano questa... festa qua di Capodanno, la prima festa di Capodanno, abbiamo chiuso il tunnel, abbiamo messo un'orchestrina, il tunnel sotto dove abita il Presidente della Repubblica, sotto il Quirinale. Sotto il Quirinale. Un terrore che successe qualche cosa tutta la notte. No, ma è andata bene, ma era all'epoca che c'era un grande assessore alla cultura a Roma, che era Renato Niccolini, l'unico gran migliore. Esatto, cioè che ha dato un po' di soldi, insomma, per fare questa cosa. Che ha dato un po' di festa. Lui proprio, abbiamo raccolto l'idea, ha già scritto lui con la sua macchinetta da scrivere la domanda da fare a lui, no? Cioè praticamente vi ha scritto la domanda, sì, che era già accolta, ma è fantastico. Sì, esattamente. È fantastico. No, perché lui era così, gli piaceva, gli raccontava un'idea, gli piaceva l'idea e via. La faceva. Bei tempi, mandava al diavolo quelli del suo partito, del PC, non gliene importava niente. Vabbè, comunque, fare un bravo assessore alla cultura. Senti qua, ogni volta che parlate dei 5 Stelle ve la fate sotto, caro Federico Novella, capisci? Tu hai paura, sei arrivato in tangenziale, non è che hai controllato le gomme? No, sei alzata la sbarra tranquillamente. Hai controllato le gomme, tutto a posto? Per ora sì. No, vabbè, siamo intimoriti dai 5 Stelle? No, io non sono intimorito. Insomma, a volte il mio gatto quando mi graffia mi intimorisce un pochettino al mattino, ma per il resto non sono intimorito da grandi cose, insomma, no, ma la certo se incontrassi 200 tedeschi, poliziotti tedeschi in tenuta d'assetto, magari un po' intimorito come Vincino lo sarei, esatto, ma da noi la situazione è come si dice, è seria ma non grave, quindi intimoriamo, dai. Ma c'è un uomo che rimane sempre lui, sempre un grandissimo, sempre al comando, Vincenzo De Luca, caro Vincino, ti piace? Ha fatto il discorso, la conferenza prima di Capodanno, Vincenzo De Luca, si sono perse un po' le tracce in mezzo a un po' i suoi guai giudiziari, qualche polemica, eccetera, sentitelo qua. Cercheremo il consenso più ampio possibile, nel massimo rispetto per le funzioni dell'opposizione, oltre che della maggioranza, ma credo abbiamo il dovere anche di garantire tempi certi ai nostri concittadini e alle imprese. Non a me, io vivo bene anche con i tempi della Magna Grecia dei monaci zen, come sapete ormai. I monaci, noi vivo bene con i tempi dei monaci zen. Ma dove le trovi? Pronto per il Quirinale. Ma noi dove le trovi? Ma dove italiani, le trova? Ma dove le trova? Caro Vincino, allora puoi giocartela. Kim Jong Grill, ricordati. Kim Jong Grill. Bella, bella. Kim Jong Grill. Va bene, ci devi. Alle gomme, occhio alle gomme. Stai attento alle gomme. Devi lasciarci con qualche altra per. Ah, Vincino, non ci hai ancora detto che hai trovato che sniffa in Parlamento? I nomi di chi sniffa in Parlamento? Guarda, non so, sì, ma per un'intervista al Libero, mi ha detto che riconosce chi sniffa in Parlamento, perché esce dal bagno e fa. A volte anche da certe dichiarazioni in TV si riconosce chi sniffa in Parlamento, secondo me. Vabbè, insomma, ce lo vuoi dire, Vincino? Alla prossima, rimandiamo alla prossima. Ma dici, sono più donne o uomini? Insomma, almeno. No, io sto vicino ai bagni, entro nei bagni degli uomini, non è che... ho capito. Quindi... Incentato, sono diversi. Quindi sai soprattutto uomini. No, c'è un corridoio con 7 bagni, tutti uomini, tutti con l'omino. No. Poi c'è si sale una scala, c'è un altro con tutte donne, con tutte donnine. Ma una percentuale di quelli che escono e fanno... 50%. 50? Ma più a destra o più a sinistra? Esatto, più a destra o più a sinistra? No, ma ci sono tanti giovani grillini là pure. Diciamo ciao alle gomme. Eccoli, buon viaggio in auto, caro Vincino. Da qualche parte i soldi li devono spendere. Buon viaggio in auto o in scooter, caro Vincino. Controlla bene che sia tutto a posto. E tutto io prenderai i mezzi pubblici. Sì. Affidati a una bella auto blu. O a dei mezzi pubblici, un bel taxi e vai tranquillo, caro Vincino. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao, Federico ciao. Novella alle 9 con Mattino 5. Ricordate, e grazie, Vincino. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan.